Nannetta, tu vieni qua. Baci, e due. Due baci. In fretta. In fretta. capitalismo da magniloquenza altera. Diceste che li alloggia dove? Alla carrettiera. A lui m'annuncerete, ma con un falso nome. Bussa vedrete come lo figlio della rete. Ma non una parola. In carrena mi ingolfo. Io mi chiamo Bartolfo. Io mi chiamo Pizzo. Siamo d'accordo. L'arcano custodire. Son sordo e muto. Siamo d'accordo tutti. Sì. Uguale a mano.